cosa non piace all'Europa dei programmi elettorali dei partiti italiani? Quasi la maggior parte delle proposte, devo dire, nel senso che sostanzialmente tutti i partiti italiani si collocano, almeno dal punto di vista retorico, nell'idea di essere contro le misure d'austerity, e tutti quanti sostanzialmente cercano di negoziare una revisione delle regole fiscali a cui l'Italia deve sottostare come parte dell'Unione Monetaria. Sappiamo che ci sono due dei quattro principali partiti, cioè la Lega e il Movimento 5 Stelle, che fino a qualche tempo fa hanno fatto del referendum sulla permanenza dell'Italia nell'Eurozona un cavallo di battaglia, ma che è un tema che è sostanzialmente sparito dai programmi, almeno come pubblicamente si vedono. E nel caso del Movimento 5 Stelle si parla di una possibilità di sforare la regola del 3% sul disavanzo per investimenti produttivi. Nel caso della Lega Nord si parla semplicemente di un negoziato con l'Europa, e il negoziato in realtà è contenuto nel programma del centrodestra, di cui ancora si sanno soltanto, diciamo, alcune sommarie intenzioni. Nel caso del centrodestra c'è anche il problema non secondario che, da un lato, Berlusconi ha da poco incontrato Juncker e la Merkel, rassicurando rispetto al fatto che un eventuale governo a guida Forza Italia non avrebbe forzato la mano su questi punti. Al contempo Salvini da tempo batte fortemente sia sull'abolizione della legge Fornero che su, appunto, la messa in discussione della permanenza dell'Italia nell'euro, ma anche, appunto, sulla revisione stessa delle regole fiscali. Ma in generale da quelle che sono le reazioni, diciamo, dall'establishment della Commissione Europea, sembra essere davvero preoccupante dal punto di vista di Bruxelles, perché in ogni caso, cioè in ogni possibile combinazione, quindi che possa essere un governo di larghe intese PD Forza Italia, oppure un governo Movimento 5 Stelle PD, oppure un governo 5 Stelle Lega, che sarebbe naturalmente l'opzione più nucleare per Bruxelles, in ognuno di questi casi comunque è quasi obbligatorio, da un certo punto di vista, che qualcosa cambia all'interno del quadro europeo. Le proposte che sono, da quelle che insomma si possono studiare come reazioni, insomma, sia dei partner nazionali europei che poi degli organismi europei, le misure che preoccupano di più sono quelle che in qualche modo cercano di redistribuire i rischi all'interno dell'Eurozona, nel senso che si è parlato molto di unione bancaria l'anno scorso, ma anche per quanto riguarda l'unione monetaria, ciò che è davvero inviso alla Germania è il fatto che alcune misure, come l'estensione della garanzia dei depositi a tutti i paesi, oppure ad esempio il fatto che ad alcuni paesi come l'Italia sia concesso di sforare da quelli che sono i vincoli europei, vengono viste come una forma di finanziamento occulto, diciamo, da parte dei paesi del nord verso i paesi del sud. Tuttavia, ad esempio, Adriano Bosoni di Stratfor, che è un'agenzia che si occupa, diciamo, di analisi geopolitica, faceva notare nel suo briefing di oggi come di fatto Francia e Germania, o l'alleanza tra Francia e Germania, è ciò che realmente regge in questo momento lo scarso consenso e la scarsa unità che c'è nell'Eurozona e più in generale nell'UE. E se da un lato la Germania naturalmente non cerca di muoversi verso nessuna soluzione che condivide il rischio, dall'altra la Francia ha una posizione un po' intermedia, perché cerca di avere una sponda verso i paesi mediterranei, di cercare soluzioni di condivisione del rischio, ma al contempo non può forzare troppo la mano per evitare di rompere questo patto di ferro a due. E quindi in realtà sembra che gli unici progetti in qualche modo condivisibili dall'intero blocco dell'Eurozona siano progetti che incrementano la spesa complessiva, come ad esempio la proposta di creare un fondo monetario europeo, che è stata un po' caldeggiata dalle istituzioni europee negli scorsi mesi, oppure la proposta di consentire agli stati di sforare la regola del deficit solo per quanto riguarda progetti infrastrutturali che coinvolgono più paesi, eccetera. Questo è tollerato, ma cose che siano in qualche modo misure unilaterali vengono scarsamente tollerate. È anche vero che, con il fatto che comunque l'Eurozona è così integrata sia a livello economico che soprattutto a livello di relazioni finanziarie, pensiamo al fatto che i titoli di Stato e le obbligazioni delle società italiane sono detenute un po' ovunque all'interno dell'Eurozona, ci sono fortissime preoccupazioni rispetto al fatto che, se comunque le istituzioni europee non si mostreranno minimamente disposte a venire incontro alle richieste dei partiti italiani, comunque ci possa essere una rottura, o in qualche modo si vada verso un elettorato che chiede più fortemente un referendum verso per la permanenza dell'Italia nell'UE o nell'euro. E questo è assolutamente temuto da tutti, naturalmente, non soltanto per una questione finanziaria e bancaria, ma soprattutto perché davvero a quel punto lo scarsissimo consenso che c'è in questo momento nell'Eurozona su pochi punti risulterebbe davvero davvero fragile. Quindi, a seconda dell'esito di quelle che saranno le elezioni, è probabile che in qualche modo ci possa essere una sorta di scambio tra le istituzioni europee e i governi italiani simile a quanto è accaduto in Spagna, cioè alla Spagna è stato concesso di essere un po' più elastica con le finanze pubbliche, molto più elastica devo dire, perché comunque si è arrivati a disavanzi del 6% sul PIL, in cambio diciamo della mancata opzione nucleare esercitata da parte dell'Italia, quindi è probabile che si arrivi a questo punto, naturalmente sempre se, come appunto sembra più probabile, ci sarà un governo comunque di larghe intese, ma che incorporando comunque degli elementi non prettamente favorevoli all'austerità, quindi non soltanto il centrodestra nel caso di Berlusconi, ma anche il PD, che comunque con le ultime fasi del governo Renzi si era mostrata diciamo più aggressiva nei confronti dell'Europa. È possibile che questo venga fatto quindi, ma c'è anche un altro punto interessante da sottolineare, cioè che tutti i partiti in questo momento stanno parlando di sforare o non sforare il 3%, quando, come abbiamo ricordato più volte anche nelle puntate degli scorsi mesi, in realtà non è più il 3% il parametro significativo, ma è quella complessa gabbia di regole che chiamiamo PIL potenziale. Ecco, da quel punto di vista sarà interessante capire come potrà essere giustificato diciamo uno sforamento delle regole, considerato che la maggior parte dei programmi che abbiamo a disposizione, di cui si sa in questo momento qualcosa, in realtà comunque prevedono un aggravio del deficit.